Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, versione speciale estiva di Restiamo Animali, è la prima pillola del mattino. Ogni giovedì alle 11.30 andiamo in onda con una versione ridotta, ristretta, solo 8 minuti, ma giornalisticamente molto densa di contenuti. E siamo in studio Camilla Lattanzi, Alessandra Giannini, Lorenzo Guadagnucci, Massimo Chiari. E ringraziamo Giuseppe Coco che anche questa volta ci ha fornito una bellissima scaletta musicale. Partiamo coi Pretenders, come sentirete in sottofondo, con Brass in Pocket. A chi dedichiamo questa prima pillola estiva? La dedichiamo a Paolo De Benedetti, teologo animalista. Un piccolo brano da un suo testo. L'uomo è l'unico essere bestiale nel mondo, l'unico essere al mondo capace di peccato, l'unico che possa e debba fare il suo kippur. L'animale è innocente, può essere pericoloso, ma non possiamo confondere il pericolo con la ferocia. E torniamo a bomba nell'attualità. Riceviamo un messaggio: emergenza al centro recupero rapaci del Mugello. Come vi ricorderete, siamo stati a Vicchio, noi della redazione di Restiamo Animali, abbiamo intervistato i valorosi volontari che tengono in vita questo centro che recupera e cura tutti i piccoli volatili e tutti i rapaci che vengono impallinati impropriamente dai cacciatori. Purtroppo sono allo stremo delle forze, devono sospendere il servizio di risposta telefonica e fermare i ricoveri degli animali perché non hanno più risorse. Abbiamo intervistato per questo Fulvio Mamone Capria, il presidente della LIPU Italia, e gli abbiamo chiesto conto di questa emergenza. Purtroppo sono centinaia gli uccelli che continuano ad arrivare giornalmente al centro recupero rapaci di Vicchio e i volontari sono stati costretti a sospendere le telefonate. E questo è un fatto molto grave perché la nostra presenza a livello nazionale nel recupero della fauna selvatica è importante e decisiva, ma serve un supporto forte delle autorità che hanno il diritto dovere di salvaguardare la fauna selvatica italiana. Per questo noi chiediamo alle autorità competenti, in particolare all'amministrazione provinciale di Firenze, allo stesso comune di Firenze, dove ci pervengono decine e decine di migliaci di piccoli uccelli, da rondoni a passeri e ad altre specie di uccelli, il nostro appello è quello di rafforzare i finanziamenti per la nostra struttura perché non riusciamo più a sostenere delle ingenti spese che purtroppo il recupero di 1100 uccelli l'anno causano al centro di Vicchio. Abbiamo dovuto sospendere le telefonate in entrata al centro recupero, è sempre disponibile un'email che è crrlipumugello@gmail.com per le urgenze e comunque per tutte quelle specie selvatiche importanti come rapace e altri uccelli c'è la possibilità di ricoverarli nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Quindi l'appello della Lega Italiana Protezione Uccelli all'amministrazione provinciale di Firenze, al comune di Firenze, affinché siano inviati ulteriori fondi a sostegno di questo importante centro di recupero che è un punto di riferimento per la città di Firenze e l'intera provincia di Firenze. Purtroppo la fauna selvatica ferita non ha voce. Che cosa possiamo fare noi cittadini per portarla in maniera più forte, più evidente, più incisiva verso queste pubbliche amministrazioni? Abbiamo lanciato un appello anche per sollecitare l'amministrazione provinciale di Firenze a darci un segnale importante. I cittadini possono anche collegarsi con il nostro sito www.lipu.it, sostenerci, mandarci anche delle piccole donazioni, iscriversi alla nostra associazione, perché più siamo e più possiamo raccogliere, sostenere, salvare migliaia di uccelli selvatici. Alessandra, molla il fiasco. E purtroppo non si parla di latte più latte mescalina. E di cosa si parla? Ma semplicemente di latte di mandorla. Dacci la ricetta. Allora, la ricetta del latte di mandorla è una ricetta piuttosto semplice. È importante farsela a casa da soli perché in giro ci sono delle schifezze incredibili. Del tipo? Del tipo, l'altro giorno un mio amico Martino è andato a comprare del latte di mandorle, me ne ha offerto un po', ho controllato gli ingredienti e mi sono resa conto che all'interno c'erano... Lardo di colonnata? Qualcosa di molto simile, perché all'interno ci ho trovato grassi vegetali e grassi animali. Orrore, orrore. Per questo la ricetta è facile e veloce. Ok, gli ingredienti per un litro di latte sono 160 g di mandorle, pelate o con la pellicina è uguale, 3 cucchiai di sciroppo di agave per dolcificarla un po', 1 litro di acqua, mi raccomando, della cannella e un micro pizzico di sale. La ricetta è una ricetta classica, antica, dissetante, estiva ed è un ingrediente fondamentale della cucina crudista. Allora, per prima cosa lasciare le mandorle in ammollo per una notte o per un minimo di 6 ore. Poi versare tutto in un colino, in una scolapasta, scolare, sciacquare velocemente le mandorle e metterle insieme all'acqua, allo sciroppo di agave nel frullatore. È qui che si aggiunge il micro pizzico di sale. Frullare tutto per un minuto, ma poi dipende dal frullatore. Non so, io ci metto un minuto, il tuo... Io quanto ci potrei mettere? Ma sei sotto la media di 3 minuti, mettiamola così. Mi è andata bene. A questo punto versare il composto in una ciotola a bordi alti rivestita con una garza alimentare, ma... Tu ce l'hai la garza alimentare? Oh mio Dio, per l'appunto mi manca la garza alimentare. Va bene anche una garza per bendaggi e pronto soccorso? No, niente pronto soccorso. Però ti consiglio di sacrificare a questo punto una magliettina bianca di cotone non trattato, sciacquata accuratamente. Non deve avere ovviamente residui di detersivo, ammorbidente o altro. Comunque una fruit. Strizzare molto bene la polpa e per rendere l'idea i crudisti utilizzano il termine mungere il sacco del latte. Oibò, noi non possiamo farlo. No, possiamo strizzare bene e a questo punto travasare il liquido in una bottiglia di vetro con il tappo e attenzione, non buttare via la polpa. Non dimenticatevi il tappo in questo caso. Chi ha buon naso? Ha buon tappo. Bombardiamo Cortina. C'è spazio ancora per due brevi notizie, Lorenzo? La prima è la vittoria a Wimbledon di Serena Williams. Serena è un'atleta che pratica una dieta vegana e questa forse è la dimostrazione di quanto l'efficienza fisica sia altamente compatibile con un'alimentazione cruelty free. Seconda e ultima notizia breve, a Pamplona nei giorni scorsi c'è stata una grande manifestazione contro la tauromachia. Si sono sdraiati in mutande di fronte al municipio di Pamplona. Dipinti di rosso e di nero, ben 1000 manifestanti per i 350.000 tori che vengono massacrati ogni anno in Spagna. La metafora di questa installazione di viventi era mettersi nella pelle del toro. E sulla note di Morrissey con la sua cover di Moon River, colonna sonora del film Colazione da Tiffany, una colazione chiaramente vegana, vi salutiamo dalla redazione di Restiamo Animali. Tutte le notizie, foto, ricette, approfondimenti, varie, svarioni e altre amenità nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove troverete anche il podcast di questa trasmissione e un servizio aggiuntivo sulla protesta che si è svolta in Piazza dei Ciompi il 1 luglio durante la finale degli Europei Italia-Spagna per protestare contro lo sterminio di oltre 20.000 randagi a Kiev in Ucraina. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.